Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ogni giorno a quest'ora su Radio 24 andiamo a cercare i fatti e i personaggi che ci parlano anche in modo inedito di noi, Italia in controluce. Oggi voltiamo pagina. Adesso basta, chi non ha mai sognato almeno una volta di cambiare vita, mollare tutto, il lavoro, la città stressante e cercare un'altra strada. Il fenomeno ha ora anche un nome, downshifting, riguarda milioni di persone nel mondo e in Italia ha preso le mosse da un libro, Maria Luisa Pezzali. Scalare la marcia, rallentare, questo è il significato letterale di downshifting. Il termine indica un fenomeno sociale che interessa milioni di persone nel mondo, 16 milioni quelle pronte ad applicarlo, secondo l'agenzia di ricerca inglese Data Monitor. Si tratta di una semplificazione volontaria della propria vita, una libera e consapevole riduzione del salario per avere più tempo libero, scrive Wikipedia. I downshifter arrivano spesso a cambiare radicalmente la propria vita, lasciando il lavoro e riorganizzando budget e ritmi. Per molti è un sogno fatto di eroi, come Robert Reich, segretario al lavoro nella prima amministrazione Clinton. Si dimise a sorpresa a causa del poco tempo libero da dedicare alla famiglia. Ora insegna a Berkeley. Per qualcuno però il downshifting è una realtà. Simone Perotti, 44 anni, top manager per 19, 4 anni fa ha mollato tutto. Ha mandato una mail ai 1600 contatti della sua agenda, comunicando una scelta frutto di 10 anni di pianificazione. Lo ha raccontato in Adesso basta, un libro che è diventato un caso editoriale. 30.000 copie, 5 edizioni in pochi mesi. Primo vademecum italiano per chi vuole dire basta. Ho detto basta a una serie di effetti collaterali della vita che tutti quanti viviamo, che se porta lavoro, se porta benessere, se porta denaro, se porta tutte queste cose, però chiede anche in cambio cose molto onerose, almeno per me onerose, come la mancanza di tempo, la mancanza di libertà, il dover frequentare persone che non ho scelto per 10, 20, 40 anni, il dover vivere in posti che non ho scelto, che non sceglierei se fossi libero. A molti di noi sembrano poca cosa, ma se ci ragioni un attimo sono cose molto onerose che cambiano la struttura emotiva, psicologica e sentimentale della nostra vita. Era un giorno d'estate, ero in macchina, ero già nel traffico alle 7:30 di mattina e non avevo una via d'uscita, non solo fisicamente perché non potevo uscire dal raccordo anulare di Roma in quel momento con la macchina, ma non avevo una via d'uscita perché non avevo costruito e neanche mai pensato in quel momento ad una exit strategy da un sistema che in quel momento mi sembrava terribilmente oneroso. Ogni anno circa 260.000 cittadini britannici fanno la stessa scelta. 1 milione in Australia nel solo 2008, secondo il Ministero dei Servizi Sociali australiani. Uscire dalle grandi città per trasferirsi in posti dove il costo della vita è inferiore risulta una scelta obbligata per i downshifter. Non a caso in Francia, patria del teorico della decrescita Serge Latouche, li chiamano neo-ruraux. Neorurali. Oggi Simone Perotti vive a La Spezia, fa 1000 lavori occasionali dallo skipper al falegname, ma mette in guardia. Questa per la libertà, scrive, non è una scampagnata per buontemponi, è una guerra. Sono tantissime le opportunità che si creano di concentrazione, di solitudine, di efficienza intellettuale e sentimentale, di modi in cui si passa il tempo, di cose che finalmente si possono fare, su cui si può finalmente diventare anche un po' più bravi. Dal punto di vista emotivo, sentimentale e psicologico sono molto controverse, la paura non va via, l'idea che si sia fatto un errore permane, il sistema te lo ricorda ogni 10 minuti, la paura di non farcela col denaro è ovviamente persistente, però anche grandissimi momenti di libertà, di emozione, di autenticità, cose per cui credo a 44 anni come ho adesso vale la pena di vivere. Il nostro sistema è molto forte, molto coercitivo, molto minaccioso. Con l'informazione ci spiega che la vita è carissima e quindi dobbiamo stare attenti a guadagnare sempre più denaro. Non è affatto vero, se non lo si butta via il denaro la vita non è affatto cara. Io vivo con 10.000 euro l'anno e conto di fare ancora di meglio. Il processo del downshifting è soprattutto un processo processo verso la sobrietà, verso l'essenzialità. Certamente la domanda del futuro è come faranno le aziende, gli direttori delle risorse umane a trattenere i loro quadri, i loro dirigenti, cioè le persone che fanno l'ossatura della società, non fosse altro per generazione, cioè i quarantenni. Come si può chiedere oggi a una persona così sotto pressione, così desiderosa di cambiare, di condividere le sorti di un'azienda in cui non crede, di un sistema in cui non crede? Questo è un grande problema di risorse umane, mi stupisce che la gran parte delle aziende non l'abbia ancora affrontato e studiato. Italia in controluce. La prossima è la storia di quattro donne. Le donne vanno avanti nonostante la crisi. L'anno scorso, anno orribile della grande frenata dell'economia, sono nate in Italia 20.000 imprese femminili. E dati alla mano, le aziende guidate dalle donne rendono di più. Ma le signore continuano ad essere in minoranza nei luoghi che contano, nei board dove si prendono le decisioni, lì sono solo il 5%. Anna Marino ha raccolto alcuni spunti, suggerimenti di donne dal Salone dell'Imprenditoria Femminile che si chiude oggi a Torino. Per non perdere il treno non hanno mai smesso di correre, più veloce della crisi, con tenacia e senza dimenticare l'ironia, da nord a sud, studiando gli itinerari giusti per dribblarla, perché l'economia, secondo le donne, ha ancora leve che si possono manovrare per percorrere i binari della ripresa. Velocità, ma anche concretezza. Come in cucina si utilizzano utensili e ingredienti con sapienza, seguendo le ricette, anche nelle imprese, mattone dopo mattone, le donne hanno costruito modelli cercando gli strumenti giusti, martelli, spatole e scalpelli, trapani e frese, come in un cantiere aperto da nord a sud. A Milano, in un momento di difficoltà, non è solo l'aspetto di genere che rileva, ma l'andamento che varia da settore a settore e che rimbalza anche dall'estero. In America il comparto delle tecnologie è ancora vivace e da noi risponde bene. Gianna Martinengo, imprenditrice per Assolombarda, coordinatrice dei comitati dell'imprenditoria femminile, è appena arrivata da un viaggio oltreoceano sulle tracce della crisi. Nell'area della Silicon Valley, che è quella che rappresenta un po' il mio settore, c'è, ma non si vede. Io opero dal 1983 nel settore dell'ICT e ero molto curiosa di capire come se la passassero là e come vivessero la crisi. C'è anzi un grande interesse ad investimento, a fare ricerca, a fare innovazione. Nei momenti di crisi bisogna andare in controtendenza e quindi investire il più possibile. L'impresa diventa un fattore di educazione, anche nella crisi, dice l'imprenditrice Chiara Poggio, che a Torino guida la Città dei Mestieri, impresa sociale che aiuta 500 ragazzi all'anno e sono 600 gli imprenditori che con la loro testimonianza insegnano e offrono opportunità ai giovani che lì si formano. Noi ci occupiamo sostanzialmente di formazione per i ragazzi giovani dei 14 ai 18 anni, ragazzi che hanno fatto a botte con la scuola, che arrivano da un passato complicato, da situazioni familiari complicate. Preso ad essere sostenuto in un momento di crisi tende più a stritolare che a formare. E invece io ho visto, tra l'altro, mettersi a disposizione imprenditori, artigiani che veramente si fanno carico di questi ragazzini, li risollevano e li rimettono in pista. Fare fatturato, allevando in modo naturale farfalle e lombrichi, sembra più difficile ancora con la crisi, e invece no. Donatella Di Cola è imprenditrice agricola nella provincia di Frosinone e, a parte una concorrenza dall'Albania, le difficoltà si superano camminando con le proprie gambe, anche senza finanziamenti. Questo lo stiamo superando tutto cercando di diversificare di nuovo la nostra azienda, trasformando la nostra azienda di allevamento in una fattoria didattica con un allevamento, con una casa delle farfalle e uno zoo annesso. Alla fine sopravviviamo lo stesso. Da una Napoli abituata alle difficoltà, Marilu Galdieri, imprenditrice nel settore dei servizi e presidente nazionale Confcommercio Terziario Donna. Come comparto abbiamo vissuto, attraversiamo ancora una crisi strutturale che per noi è un po' inedita, infatti il terziario negli anni l'abbiamo visto solamente crescere. Napoli, come tutto il sud, ha vissuto un po' di più negativamente questa crisi strutturale, soprattutto perché sono zone, quelle del mezzogiorno d'Italia, già a ritardo di sviluppo rispetto a quelle del centro. Ed ecco i consigli per tutti, in cui non c'è niente di fazioso di parte, basta soltanto ascoltare, dalle parole ai fatti, dice da Milano l'imprenditrice Gianna Martinengo. A parte quello generale che ho già indicato, quindi investire in ricerche, in autoformazione, in competenze, essere pronti, perché prima o poi questa crisi finirà, io continuo a fare l'imprenditrice, quindi devo per forza essere ottimista. Si parla molto di networking, farlo cozza costantemente con quell'individualismo straordinario che ci contraddistingue, con questo timore, no, che altri copino l'idea, però se non condividi, non collabori, non partecipi a processi di filiera, di networking, eccetera, diventa impossibile competere. Fare rete, senza paura, tra grandi e piccole imprese, tra quelle dello stesso settore, della stessa filiera, perché non c'è alternativa per sopravvivere. Questa è l'Italia in controluce che oggi vi abbiamo raccontato, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Scriveteci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook Radio 24 Italia in controluce. Da Alessio Maurizi, una buona giornata.